Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi torniamo a parlare di un tema che per qualcuno è un po' antipatico, qualcuno lo guarda con timore, come uno spauracchio. Ci sono quelli che invece andranno avanti imperterriti pensando di farla franca con le loro abitudini, i loro comportamenti nei confronti del fisco. Altri invece confidano parecchio in questo strumento che mira alla lotta all'evasione fiscale. Parliamo di nuovo di strumenti di accertamento del reddito. Quello che ci interessa capire oggi è come funzionerà a partire dei prossimi mesi lo spesometro. Lo conosciamo un po' di più dalla scorsa estate, dal varo della manovra estiva e poi il decreto di attuazione che è stato pubblicato in dicembre. Non succederà niente di trascendentale, solo che a partire dal prossimo mese di maggio tutte le spese che i privati sosterranno e che ammonteranno ad una cifra superiore a 3.600 euro comporteranno il dover comunicare contestualmente all'acquisto anche il proprio codice fiscale al rivenditore. La novità è funzionale e serve a schedare, passatemi il termine, tutti i consumi superiori a certe cifre a combattere l'evasione. In sostanza il fisco vuole fare un banale incrocio di dati per verificare se i redditi dichiarati al fisco sono coerenti con lo stile di vita e il tenore di vita del contribuente. Tanto per fare un esempio, se un contribuente dichiara così, una cifra rotonda, vi do 30.000 euro di reddito l'anno, ma nello stesso arco di tempo effettua spese di qualunque genere che sono di entità superiore ai 50.000 euro, viene indicato fra i soggetti a rischio evasione e dunque sarà soggetto a controlli da accertamento sintetico. Ma ci chiediamo, saranno controlli in automatico o dovranno esserci altri presupposti? Quello che ci serve capire è che cosa succede nel momento in cui l'anagrafe tributaria mette a confronto tutto questo. E allora noi per fare un po' l'ABC dello spesometro, mentre peraltro, come ricorda il Sole 24 Ore di questa mattina, entro marzo, a marzo appunto partirà anche il redditometro di seconda generazione. Noi stamattina, per capire qualcosa di più rispetto a tutto questo, abbiamo interpellato due esperti che speriamo ci aiutino a fugare tutti i dubbi, ma lo faranno senz'altro. Confido notevolmente nelle loro qualità professionali. Nicola Forte, consulente tributario in Roma ed esperto su queste tematiche per il Sole 24 Ore. Dottor Forte, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti i radioascoltatori. E poi l'avvocato Corrado Rosano dello studio Nunziante Magrone di Roma, un altro esperto di queste tematiche. Avvocato, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Ovviamente microfoni aperti per i nostri ascoltatori che potranno interpellarci per togliersi qualche curiosità su questo argomento all'800240024, oppure se volete scriveteci al 349-238-6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima un'occhiata alla borsa. Allora, le borse stamattina erano partite bene, poi hanno improvvisamente rafforzato i guadagni grazie a questo report di JP Morgan che ho citato poco fa nel corso del giornale radio, e in tutto anche nell'attesa dell'asta di titoli di Stato portoghesi che si doveva svolgere questa mattina. Abbiamo avuto l'esito praticamente proprio a cavallo del giornale radio. L'asta è andata bene, anzi sono praticamente state due aste per due tipologie di titoli a scadenza diversa. E allora, nell'operazione a tre anni, il tesoro lusitano ha piazzato titoli per 650 milioni di euro ad un tasso del 5,39%, in aumento dal 4,014% della precedente asta. In quella a nove anni invece ha collocato titoli per 599 milioni di euro al tasso delle 6,71%, in calo rispetto alla precedente operazione quando i rendimenti riconosciuti erano stati del 6,80%. L'asta a breve ha registrato una domanda di 2,6 volte superiore appunto all'offerta, mentre quella in scadenza nel 2020 un interesse che è stato superiore per 3,2 volte. Per cui una buona riuscita, il mercato obbligazionario regge. Tutto questo anche peraltro nell'attesa di sapere come andranno domani invece le aste, i titoli di Stato italiani, BTP e di bonus spagnoli. Più l'euro sul dollaro in relazione Al tema di cui stiamo parlando questa mattina ovviamente si guarda sempre anche all'effetto sul mercato valutario, e a 1,2986 stamattina l'euro aveva oltrepassato di nuovo la soglia di 1,30, e dicevamo delle borse che, dopo essere partite bene, hanno notevolmente rafforzato i loro guadagni grazie a questo rapporto di JP Morgan che dice di preferire le banche europee a quelle americane. E ovviamente il listino italiano, essendo largamente composto di titoli bancari, schizza in avanti rispetto agli altri listini del vecchio continente, più 2,81% in questo momento per Milano grazie a Intesa San Paolo, che segna un balzo di 8 punti percentuali. Oggi una giornata di incredibile riscossa per i titoli del settore, appunto, del credito. Popolare di Milano più 6,95, Banco Popolare più 6, qui c'è anche la sua storia, il gruppo presumibilmente riconoscerà un dividendo a chi ha aderito all'aumento recente di capitale. Unicredit più 5,50, Ubibanca più 4,93, Monte dei Paschi più 3,80, Fondiaria più 3,32, Mediolanum più 3, Mediobanca più 3, abbiamo un più 3 anche per Tenaris, per Generali più 2,7 per Mediaset. Insomma, oggi diamo queste buone notizie agli ascoltatori, che non sempre riescono in realtà ad incassare, insomma, giornate di rialzi come questa. La Galassia Fiat oggi va su strade separate, i titoli delle Industrial perdono lo 0,89%, perde lo 0,7% Campari, Parmalat meno 0,24%. Sulla borsa abbiamo già detto abbastanza, adesso andiamo al tema di oggi e vi presentiamo il nuovo spesometro. È stato battezzato con il termine spesometro il nuovo sistema di controllo dell'Agenzia delle Entrate contro l'evasione fiscale, e che metterà sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che supereranno una certa soglia, vale a dire 3.600 euro. Così, dal 2011, oltre al redditometro, questo nuovo strumento previsto dalla manovra estiva controllerà in automatico la capacità contributiva degli italiani alla ricerca di furbetti e furboni. Lo spesometro altro non è che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori. Tradotto in termini pratici, più sono i consumi di un determinato contribuente, maggiore deve essere il suo reddito per poterli sostenere. Per esempio, se un contribuente dichiara 30.000 euro di reddito e nello stesso anno effettua 50.000 euro di spese, verrà indicato tra i soggetti a rischio evasione e dunque sarà soggetto ai controlli da accertamento sintetico. Ecco perché chi effettuerà acquisti superiori alla soglia stabilita dovrà comunicare al commerciante o all'impresa venditrice il proprio codice fiscale. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. Questo è il numero verde che vi permette di intervenire in diretta, ma ci sono anche altre opzioni: il numero per gli sms 349 238 6666, l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora, Nicola Forte, ancora buongiorno, consulente tributario in Roma, nostro esperto su queste tematiche, sul Sole 24 Ore scritto tanto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi su questo argomento. E allora, vogliamo ricordare un po' di ABC, qual è la genesi, appunto, anche legislativa forte di questo strumento di lotta all'evasione fiscale, ricordando anche che mancano ancora alcuni provvedimenti attuativi e quindi su alcuni aspetti ancora non c'è una puntualissima chiarezza. Sotto il profilo normativo, questa novità trova la sua origine nella cosiddetta manovra d'estate, decreto legge 78 del 2010, dove sono intervenute importanti modifiche proprio per normative per contrastare con maggiore efficacia l'evasione fiscale. Lo strumento è appunto quello fondato sul cosiddetto accertamento sintetico, cioè la capacità di spesa del contribuente. E la vera novità, più che dal redditometro era uno strumento che in realtà già esisteva, anche se poco applicato da parte dell'amministrazione finanziaria, la vera novità è rappresentata dalla previsione, dall'introduzione di una nuova presunzione. Questa nuova presunzione è introdotta appunto dall'articolo 38,4 del DPR 600, prevede che a X ammontare di spese debba corrispondere un reddito realizzato, conseguito nello stesso anno in cui il contribuente stesso ha sostenuto le spese, salvo ovviamente la capacità, la possibilità di dimostrare, certo, i flussi finanziari per sostenere quelle spese o provengono da redditi non tassati, esenti da tassazione, o provengono da entrate relative ad anni precedenti. Quindi nel momento in cui, come dire, il fisco individuerà una sorta di incongruenza fra i redditi dichiarati dal contribuente e queste spese sostenute accertate con lo spesometro, non è che poi subito fa scattare chissà come dire, accertamenti di quale tipo. C'è sempre ovviamente la possibilità per il contribuente di dimostrare effettivamente il contesto in cui poi questa situazione si è verificata. Detto questo, poi andremo avanti anche con un esempio forte, me lo sono preparata uno bellissimo, mi sono immaginata di andare domani da Bulgari a comprare il gioiello dei miei sogni e quindi per capire anche poi con i rivenditori come ci dobbiamo comportare, ma non è che poi tutti questi accertamenti si verificheranno solo ed esclusivamente nel momento in cui compriamo l'auto nuova o un gioiello di valore o un'opera d'arte, ovviamente anche avvalendoci per esempio del lavoro di un professionista come nel caso di un commercialista, allora anche lì magari potremmo aver bisogno di una consulenza che una volta remunerata al professionista al quale ci siamo rivolti avrà un importo di questo tipo, quindi anche lì dovrà essere dimostrata la congruità o la congruenza, prima ho detto, non so neanche se è giusto, tra effettivamente spesa sostenuta e reddito dichiarato. Detto questo però volevo sentire anche un professionista qual è la valutazione che fa rispetto ad un monitoraggio di questo tipo. Dottor Rosano, avvocato Rosano, rappresenta a suo avviso un utile deterrente o no rispetto a determinati tipi di comportamenti? Beh, indubbiamente lo strumento del redditometro prosegue lungo la strada dell'introduzione degli strumenti di accertamento in via sintetica o induttiva e dunque teoricamente dovrebbe mettere l'amministrazione finanziaria nelle condizioni di acquisire un maggior numero di informazioni sia dai soggetti, diciamo, che nell'esempio testé fatto vendono il bene al singolo cittadino, sia nei confronti dei soggetti che acquistano e quindi dimostrano attraverso l'acquisto una capacità di spesa. Quindi in teoria l'utilizzo, l'introduzione nel sistema di questo ulteriore strumento dovrebbe consentire all'amministrazione finanziaria di incrociare tutti i dati a disposizione attraverso una banca dati telematica sempre più sofisticata, sempre più specifica e quindi in qualche modo un effetto ai fini dell'accertamento questo strumento ce l'ha. Il collega Marco Mobili sul Sole 24 Ore questa mattina li definisce effetti persuasivi e quindi c'è da giurarci, lui dice che questi nuovi strumenti, appunto rafforzamento quantomeno per esempio per quello che riguarda il redditometro, lo avranno. Vi interrompo perché devo fermarmi perché abbiamo già la nostra prima pausa e poi daremo subito spazio ai nostri ascoltatori che sono già tantissimi perché noi siamo partiti appunto spiegando proprio un ABC molto sintetico di questa novità, ma c'è già chi invece chiede un approfondimento invece molto accurato di alcuni aspetti di questo nuovo strumento di accertamento appunto del reddito, soprattutto delle spese dei contribuenti per fare questi controlli incrociati. 800 24 00 24, numero verde ancora per voi, ci risentiamo tra pochissimo. Allora, le banche dati del fisco dei prossimi mesi si arricchiranno di un altro elemento, le spese superiori a 3.600 euro per acquisti di beni e servizi. Da maggio, quando si andrà in un negozio, si chiederà qualche prestazione di servizi, appunto, bisognerà sempre dare il codice fiscale se la somma pagata supererà la soglia dei 3.600 euro. Si tratta di milioni di segnalazioni che confluiranno nell'anagrafe tributaria e tutto questo servirà al fisco per incrociare le spese che noi sosteniamo e quindi il nostro tenore di vita insieme alla nostra dichiarazione dei redditi per verificare appunto se ci sia congruenza rispetto alle due alle due cose e questo naturalmente l'obiettivo come sapete porta a voler come dire intensificare gli strumenti di lotta all'evasione fiscale che è altissima nel nostro paese. Oggi il Sole 24 Ore fa altre cifre, altri dati appunto che in qualche maniera sono stati indicati anche nei giorni scorsi dalla stessa Agenzia delle Entrate, dalle numero 1 Attilio Beffera, 100-120 miliardi l'evasione annua in Italia e quindi bisogna potenziare tutti gli strumenti disponibili. Stamattina per capire come funziona quello che è stato definito il nuovo spesometro, Nicola Forte, consulente tributario a Roma, esperto per il Sole 24 Ore, l'avvocato Corrado Rosano dello studio Nunziante Magrone di Roma. Prima di sentire Claudio da Genova e Alessandro da Pescara che sono pronti con due domande, vorrei proprio fare un esempio pratico e molto banale, dottor Forte, per far capire che cosa succederà effettivamente. Allora io faccio un esempio divertente, così almeno attiriamo un po' di più l'attenzione dei nostri ascoltatori. Siccome a me l'anello di fidanzamento non me lo regalerà mai nessuno forte, allora io domani mattina voglio andare da Bulgari o da Tiffany a comprarmi un bel gioiello e prevedo di spendere 4.000 euro. In primo luogo, il rivenditore che cosa deve fare? Perché c'è un ascoltatore che ci chiede, ad esempio, se è il rivenditore che deve chiedere il codice fiscale o io devo darlo di mia spontanea volontà. Credo che ci deve essere una certa pressione da parte del rivenditore. Sì, il rivenditore lo deve sicuramente chiedere, perché l'obbligo di comunicare al fisco la transazione, la vendita dell'importo superiore a 3.600 euro, nel caso specifico 4.000 euro, è a carico del rivenditore. Tra l'altro, se il rivenditore omette di inserire il codice fiscale nella sua comunicazione, quindi effettua una comunicazione parziale, è destinatario, ammesso che il fisco naturalmente sia in grado di intercettare la sua omissione, è destinatario di una sanzione. Quindi c'è un interesse, proprio per evitare di esporsi a questo rischio del rivenditore, interesse barra obbligo a richiedere questa informazione. Allora, tanto per capire anche le date, perché io sto continuando a dire che in sostanza questo obbligo del tirar fuori il codice fiscale al rivenditore per spese superiori ai 3.600 euro appunto scatterà a partire da maggio. Ho detto giusto, perché ho fatto l'esempio di andare domani mattina in gioielleria, invece è da maggio in avanti? Diciamo che per le operazioni effettuate nei confronti, diciamo consumatori finali, più correttamente nei confronti di quei soggetti nei cui confronti appunto non è obbligatoria l'emissione di una fattura, il rivenditore nel caso dell'esempio Bulgari, per le vendite effettuate nei confronti di un privato, non è obbligato a richiedere la fattura, quindi ciò comporta che il nuovo obbligo per queste vendite scatta per le operazioni poste in essere dal 1 maggio 2011. Ma supponiamo, è un esempio forse teorico, ma serve per far comprendere ai radioascoltatori con maggiore precisione questo profilo temporale, che una persona fisica, un soggetto, si rivolga a Bulgari e nel corso del mese di febbraio chiede al rivenditore la fattura. In questo caso il gioielliere è obbligato a emettere questo documento, e l'obbligo trova proprio la sua origine nella richiesta fatta dall'acquirente. Essendo obbligatoria l'emissione della fattura, in linea teorica questa transazione, questa vendita andrà comunicata anche se effettuata entro il 30 aprile. Diciamo che per le vendite nei confronti delle persone fisiche, consumatori finali non destinatari di fattura, la data spartiacque è quella del 1 maggio 2011. E poi, avvocato Rosano, naturalmente tutti i rivenditori in questione, i vari bulgari della situazione dei quali stiamo parlando, dovranno fare la comunicazione al fisco di tutte le transazioni di importo superiore ai 3.600 euro a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. Quindi non è che ogni volta che faranno una transazione dovranno adottare una procedura di comunicazione al fisco. Si farà una, se non ho capito male, comunicazione unica all'inizio dell'anno successivo. Ho capito male, avvocato Rosano? Le comunicazioni, diciamo, sono fissate ordinariamente entro la fine del mese di aprile di ciascun anno, in riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo di imposta precedente, con quella, diciamo, parziale esclusione che è prevista per l'anno di entrata in vigore. In realtà, in riferimento al periodo di imposta 2010, il cui obbligo di comunicazione ordinariamente sarebbe stato fissato al 30 aprile del 2011, l'obbligo stesso, come sappiamo, in sede di prima applicazione è stato spostato al 31 ottobre del 2011. E soprattutto la cosa importante è che nel primo anno di applicazione lo spartiacque, diciamo, economico non è i 3.000 euro come previsto dal provvedimento, ma è 25.000 euro, e non si applica, diciamo, questo meccanismo ai soggetti, alle operazioni per le quali non vi è l'obbligo di emettere la fattura. Quindi sostanzialmente soltanto per le operazioni per i quali vi è obbligo di emettere la fattura, per una soglia superiore ai 25.000 euro, si applicherà in sede di prima applicazione questo meccanismo. Quindi questo, diciamo, è una precisazione. Volevo però, se mi consente, sull'efficacia dello strumento, sì, concludere soltanto nel dire che naturalmente ci vuole molta buona volontà, diciamo, da parte degli operatori coinvolti nel dare attuazione concreta a questo strumento, perché naturalmente chi vende merce la vende a buoni clienti è interessato a consegnarle e a farci pagare il prezzo. Non c'è, diciamo, un interesse insito da parte del venditore a porsi in funzione di ausilio, no, degli strumenti di accertamento. Quindi si può dire che comunque è uno strumento educativo verso la dimostrazione di tutti, ecco, gli elementi, appunto, che consente, anche perché il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che è stato emesso nel mese di dicembre, per la verità, è un provvedimento molto ben fatto anche per quanto riguarda la tutela dei cittadini, perché si spendono più di un passaggio in riferimento all'accortezza con la quale questi dati verranno utilizzati nell'ambito dell'amministrazione finanziaria. Basti soltanto pensare che i funzionari dell'amministrazione finanziaria che saranno deputati a gestire questi dati avranno tracciate tutte le singole operazioni, anche di accesso alla banca dati, che effettueranno nei confronti del singolo cittadino, e quindi vi sarà, come dire, la possibilità da parte del cittadino di controllare effettivamente qual è stato l'utilizzo di queste informazioni che l'amministrazione finanziaria ha fatto, e se l'utilizzo è stato un utilizzo proprio, certo, cioè l'utilizzo volto ad accertare naturalmente la capacità contributiva degli stessi, o non piuttosto utilizzi impropri che possono violare anche la riservatezza al limite dei dati. Esatto, personali. Tra l'altro sì, esatto, c'era anche il tema della privacy che adesso vediamo se riusciamo a sollevare nel corso della trasmissione. Mi piace però di più proprio entrare nel merito di casi molto pratici che gli ascoltatori ci stanno ponendo, perché naturalmente c'è chi per esempio dice: ma insomma, vabbè, un pensionato una volta che è andato in pensione magari percepisce ovviamente una pensione, non dico modesta, ma insomma ragionevole, e magari con i risparmi di tutta una vita spende 50.000 euro per fare la ristrutturazione della casa. Ma infatti quello che noi vogliamo dire non è che adesso ogni persona che spende più di 3.600 euro avrà controlli di che tipo. Bisognerà fare una serie di controlli, cioè bisognerà anche che ci siano dei presupposti molto ragionevoli affinché poi l'anagrafe tributaria e il fisco vadano a chiedere appunto lo svolgimento di determinati tipi di controllo, per cui siamo anche ragionevoli con le domande. E se la cosa è piuttosto stravagante, se la situazione che emerge è piuttosto stravagante, allora ci saranno appunto delle condizioni per cui si andranno avanti con i dovuti accertamenti fiscali. Su questo punto adesso ci andiamo, intanto un paio di domande di alcuni ascoltatori. Claudio da Genova, perché stanno aspettando anche da un po'. Claudio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io volevo chiedere se questo redditometro viene applicato anche sulle transazioni finanziarie. Questo è lo spesometro, Claudio, è una cosa diversa dal redditometro, anche se poi ci sarebbe anche da fare per esempio un confronto con i motori di ricerca che sono stati messi a punto in questi anni dalle amministrazioni appunto per lo stesso intensificare la lotta all'evasione fiscale. Noi nei mesi passati avevamo parlato di quel motore di ricerca messo a punto dall'Agenzia delle Entrate contro l'evasione che era Serpico, c'è anche quello della Guardia di Finanza che è Perseo, quindi capire anche poi se tutti questi strumenti si vanno ad incrociare in maniera sbagliata, sono dei doppioni. Però forte, vengo a lei sul chiarimento chiesto dall'ascoltatore sulle transazioni finanziarie. Certamente, in realtà il concetto di spesa ai fini di questo meccanismo dello spesometro è un concetto che si è andato dilatando. Noi non dobbiamo considerare il concetto o la natura di spesa solo come costo, ma anche come flussi e quindi come investimenti. Sotto questo profilo, quindi, questo dato deve essere sicuramente intercettato. Però dobbiamo anche considerare che una serie di dati nelle banche dati del fisco già affluiscono, ad esempio tutti i dati relativi alle utenze, ai mutui, alle assicurazioni. Gli intermediari finanziari hanno già degli obblighi ben precisi nei confronti del fisco di comunicare autonomamente questi dati. Quindi sotto questo profilo non c'è una duplicazione con lo strumento, perché sono dati che attraverso altri canali, ripeto, hanno già implementato le banche dati del fisco. ecco. Benissimo. Allora, tra l'altro, avvocato Rosano, torno da lei. Quali saranno presumibilmente i beni maggiormente oggetto del controllo fiscale, quindi sotto la lente dello spesometro? C'era un elenco che faceva il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, si parlava ovviamente di auto, perché hanno inevitabilmente individualmente un importo superiore alle cifre che stiamo indicando, le barche, e poi si segnalavano anche cucine, moto, biciclette. Insomma, ci può dare un'idea anche rispetto a questo? Ma direi che tendenzialmente, essendo un ulteriore strumento per l'accertamento della capacità contributiva che si pone nell'arco degli strumenti previsti anche dal redditometro, di cui è a buon diritto farà parte, sicuramente ci si riferisce innanzitutto ai beni di lusso, i beni che naturalmente possono costituire un indice di capacità contributiva di un certo livello, quindi sicuramente tutti i beni a cui lei ha fatto riferimento testé sono da considerare come posti sotto la lente fini di questo spesometro. Certo, e vorrei anche segnalare agli ascoltatori, non pensiate di farla franca magari così adottando un sistema di pagamento a rate, perché se il bene acquistato è unico lo si può dimostrare in 448, ovviamente 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Ritorniamo alle domande degli ascoltatori dopo i suggerimenti per Chi in Viaggio. Le domande che stanno arrivando da parte degli ascoltatori sono veramente incredibili, tantissime, e naturalmente c'è chi la pensa a lunga. Nicola Forte, un ascoltatore, chiede: mi è venuto un dubbio, come possiamo essere sicuri che uno non dichiari il codice fiscale falso o di un'altra persona? Il negoziante deve controllare anche i documenti e verificare che non siano stati contraffatti, falsi, insomma, che io non porti il codice fiscale di qualcun altro? Il decreto a rigore non impone obblighi di controllo, quindi non possiamo pretendere che di addossare al rivenditore oneri che la legge non pone espressamente a suo carico. È evidente che, come nel precedente intervento anticipato, per comunicazioni incomplete, inesatte, il rivenditore è destinatario di una specifica sanzione. Buon senso e cura vorrebbe che il rivenditore chiedesse, se non altro, la tessera sanitaria, anche per errori che possono poi in effetti essere commessi in buona fede. E quindi direi, sotto questo profilo, è assolutamente corretta e pertinente la domanda, e questa è la soluzione. Alessandro da Pescara, buona giornata. Buona giornata e grazie di avermi chiamato. Grazie. Senta, a lei. La mia domanda penso che sia stata in parte già evasa. La ribadiamo, Mi spiego meglio. Se io devo affittare un posto barca che mi costa 5.000 euro all'anno, se lo pago in due volte facendo il furbo all'italiana, rientrerei tranquillamente nei 2.500 o 3.000 euro che non sarebbero da censire. Io penso che lo Stato non sia così sciocco da non aver previsto questa infatti è come se io vado a comprare l'anello che dicevo prima da Bulgari, ma insomma il bene acquistato è quello, ha quel valore, è inutile che io lo pago a rate a Bulgari, che poi non so se neanche me lo permetterebbe in 10 rate, per sfuggire a questo accertamento. Alessandro, cioè, perlomeno a me sembra banale, però giustamente è un tema da sollevare. Io la ringrazio, la saluto brutalmente perché i minuti ci scorrono via, vorrei subito far rispondere i nostri interlocutori. Avvocato Rosano, se vuole inizio con lei. Certo. Naturalmente il legislatore non è stato effettivamente così molto preciso su questo. Molto preciso, ma neanche poco accorto, nel senso che si è posto il problema dei contratti, di durata o dei contratti di somministrazione, tutti i contratti per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo periodico e non un corrispettivo, una tantum, come avviene nel caso dell'acquisto dell'anello. Questo si può applicare anche nei casi di fatturazione del professionista di una prestazione al proprio cliente. Guardi, tra l'altro l'anello di Bulgari è infastidito un po' come esempio, allora vado ad un esempio che magari può far identificare i contribuenti un po' meglio. Una cucina per rinnovare l'arredamento della nostra casa da 5.000 euro. Il pagamento questo può essere fatto a rate, peraltro, in maniera anzi più naturale. Esatto. Quindi è stato sostanzialmente previsto che per i contratti nei quali è previsto il pagamento di un corrispettivo periodico, come sono i contratti di fornitura o di somministrazione di energia, eccetera, si tenga conto dell'ammontare che nell'anno abbia superato, diciamo, la soglia dei 3.000 euro più IVA. Mentre per quanto riguarda i contratti che sono anche tra loro collegati, perché c'è uno spezzettamento, diciamo, del corrispettivo, ma che è riferimento, diciamo, a una stessa tipologia di prestazione, anche qui ai fini della comunicazione si tiene conto dell'ammontare complessivo dei corrispettivi. Quindi nell'esempio dell'ascoltatore precedente non può sfuggire, diciamo, a questo obbligo di comunicazione il fatto che sia stato spezzettato il pagamento. E infatti, Francesco da Torino, forse abbiamo anche bruciato la sua domanda. Siamo stati chiari? Buongiorno. Buongiorno e grazie. Sì, in parte sì, è stata bruciata effettivamente. Io ho anche il mio piccolo problema, c'ho la moglie e 3 amanti e regalo sempre lo stesso gioiello. Che bel problema, insomma. Come fa a gestirsi, Francesco? Ci racconti un po', dovrei dedicare una puntata solo a lei. Oltre il singolo oggetto, quindi del valore superiore a X euro. Sì. Vanno anche accumulati, ovvero se io faccio la spesa nello stesso negozio per un ammontare superiore a X euro, rientro sempre nella casualità, anche se ho 4 acquisti. 4 acquisti differenti. Francesco, una bella domanda anche la sua. Forte, Nicola Forte. Questo è un altro bel caso. È un punto di particolare criticità, perché la relazione che accompagna il decreto fa riferimento al corrispettivo relativo alla singola operazione, alle operazioni di valore unitario. Allora il problema è comprendere se nel caso specifico l'operazione è singola o si tratta di 3 operazioni. E se io No, perché per esempio vado al supermercato e rifaccio l'arredamento della casa, lasciamo i gioielli, no? E compro il frigorifero, la lavatrice, la nuova cucina a gas, eccetera. Individualmente questi pezzi non valgono ovviamente la cifra di cui abbiamo parlato, a meno che non siano di qualità spaziale. Però complessivamente l'acquisto fatto presso il medesimo supermercato, il centro commerciale, ci porta a spendere oltre 3.600 euro. Se si tratta di beni che sono suscettibili di un'autonoma utilizzazione, cioè l'uno può essere utilizzato autonomamente rispetto all'altro, quindi ha una sua funzionalità, ho la possibilità di considerare i singoli acquisti. Qualora invece i singoli beni perdono autonomamente una loro funzionalità e quindi devono essere considerati nel suo complesso, allora a questo punto devo considerare l'importo complessivo della transazione. Quindi questo è un punto non ancora chiaro che deve essere chiarito dall'amministrazione fiscale? È un punto di assoluta criticità, perché consideri il caso in cui io mi reco presso quel rivenditore e acquisto un frigorifero e poi un mese successivo mi reco presso lo stesso rivenditore e acquisto dei pensili. E sotto questo profilo si tratta di singole operazioni e non c'è obbligo di comunicazione se non supero la soglia. L'elemento di difficoltà è quando l'acquisto viene effettuato contestualmente. Però questo aspetto è sicuramente molto delicato e dovrà essere oggetto di comunicazione. Guarda, peraltro c'è un ascoltatore, per esempio, adesso sto leggendo che stanno arrivando una marea di SMS. Per esempio c'è chi ci pone il tema della retta scolastica privata, Forte. Bisogna vedere innanzitutto chi è il soggetto destinatario del pagamento, e dobbiamo tenere conto che nello spesometro l'obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente solo le prestazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Se il soggetto destinatario del pagamento è un soggetto IVA, cioè un soggetto che in sostanza è in possesso della partita IVA, e la retta appunto è una retta esente, perché sostanzialmente si tratta di operazioni che non determinano l'addebito dell'IVA, perlomeno per quanto riguarda le rette scolastiche, in questa ipotesi c'è obbligo di comunicazione, ovviamente laddove ci sono tutti i presupposti, quindi si supera l'importo, la soglia prevista dal decreto. 30 secondi prima di chiudere, il tempo è volato con tante vostre sollecitazioni. Giancarlo da Lecco ci deve fare una domanda in 10 secondi. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda è già stata un po' evasa, un po' sul pagamento a rate. A questo punto però mi chiedo anche se un bene la cucina vale 5.000 euro. Ovviamente io posso trovare e ricattare il rivenditore e dire o me la dai tu senza codice fiscale oppure mi trovo un altro rivenditore che me la dà. Guardi, le invenzioni sono tante quelle che possiamo fare, però insomma l'idea è che ci guidi il buonsenso anche in ogni comportamento. Avvocato Rosano, vuole rispondere lei, se ce la fa in 10 secondi io mi rendo conto. A meno che non chiediamo al nostro rivenditore di venderci una volta il forno, una volta la cassa, un'altra volta il piano portiamo di a casa anche a rate il bene, però beh, insomma, sono rischi di cui credo che l'amministrazione fiscale sia assolutamente cosciente. Allora, molti ascoltatori ci chiedono, ma allora quando fate anche la puntata sul redditometro? Coglieremo magari l'occasione di Telefisco, che l'appuntamento con i professionisti del Sole 24 Ore è fissato quest'anno per il 26 gennaio. Noi faremo la trasmissione la giornata precedente, magari andremo sul redditometro o cercheremo di ritornare sullo spesometro per chiarire tantissimi dubbi che avete sollevato questa mattina. Noi però adesso ci dobbiamo fermare perché abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Abbiamo oggi anche lo stesso, come stiamo facendo da molti giorni a questa parte, intanto mi ero perso il copione, le nostre parole della Previdenza, la nostra pillola in collaborazione con l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che oggi ci spiega il concetto di invalidità civile ed età pensionabile. Il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità civile non riduce l'età necessaria per poter andare in pensione di vecchiaia. Anche se si è riconosciuti invalidi in parte, in base ad una percentuale non sufficiente a dare luogo ad un beneficio economico, pensione o indennità di accompagnamento, si può andare in pensione di vecchiaia soltanto al compimento dell'età prevista, vale a dire 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. E allora, Salvadanaio, anche per oggi termina qua. Avete sollevato una marea di questioni, allora devo per forza promettervi che torneremo sull'argomento di oggi. Magari rimetterò insieme molto volentieri Nicola Forte e Corrado Rosano, appunto, che sono stati i nostri ospiti di questa mattina. Grazie a tutti, Salvadanaio torna domani, buona giornata.